Preparatevi. We are divine beings. Noi siamo esseri divini. We are gods in the flesh. Siamo Dio in un flesh. We are the creators of destiny. Siamo Dio nella carne, siamo creatori del nostro destino, è questo che siamo. To be greater than your body. Essere più grandi del vostro corpo. To be greater than your essere più grandi del vostro ambiente. E trascendere il tempo questo significa che siamo i padroni del nostro corpo, i padroni del nostro ambiente e siamo i padroni del tempo. Adesso riuscite a diventare consapevoli dello spazio che i vostri occhi occupano nello spazio. E riuscite a sentire il volume dello spazio. That your eyes are in. In cui si trovano i vostri occhi. In space. Nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio che le vostre narici occupano nello spazio. Riuscite a percepire il volume dello spazio. Che la parte interna del vostro naso occupa. Nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli dello spazio tra le orecchie nello spazio. E riuscite a percepire il volume dello spazio. Tra le orecchie in space. Nello spazio. Can you sense? Riuscite a percepire the energy of space. L'energia dello spazio. Around. Intorno. Your ears. Alle vostre orecchie. In space. Nello spazio. And can you feel? E riuscite a sentire volume of space, il volume dello spazio, beyond, oltre your ears, le vostre orecchie, in space, nello spazio. Dello spazio, beyond, oltre your throat, la vostra gola, in space, nello spazio. Riuscite a diventare consapevoli of the space, dello spazio, beyond, al di là, your chest, del vostro torace, in space, nello spazio. And can you sense? E riuscite a percepire l'energia dello spazio, around, intorno, your chest, al vostro torace, in space, nello spazio. Consapevoli of the space, dello spazio, beyond, oltre your shoulders, le vostre spalle, in space, nello spazio. And can you sense? E riuscite a percepire l'energia dello spazio, around, intorno, your shoulders, le vostre spalle, in space, nello spazio. Mm-hmm. aware. E riuscite a diventare consapevoli of the space. Nello spazio. Beyond. Oltre. Your back. La schiena. In space. Nello spazio. And can you sense? E riuscite a percepire the energy of space. L'energia dello spazio. Beyond. Oltre. Your spine. La colonna vertebrale. In space. Nello spazio. Adesso, can you sense, riuscite a percepire the space, lo spazio between, tra your knees, le ginocchia in space, nello spazio. Riuscite a sentire the energy of space, l'energia dello spazio between, tra your legs, le gambe in space, nello spazio. Percepire the space, lo spazio beyond, oltre your legs, le vostre gambe in space, nello spazio. And can you feel, e riuscite a sentire volume of space, il volume dello spazio beyond, oltre your legs, le vostre gambe in space, nello spazio. Spazio. spazio. Riuscite a percepire lo spazio tra il vostro corpo e le pareti di questa sala, nello spazio. Riuscite a sentire il volume dello spazio, che tutta questa sala occupa nello spazio. A sentire lo spazio oltre questa sala, nello spazio. E riuscite a diventare consapevoli dello spazio intorno a questa sala, nello spazio. Riuscite a percepire il volume dello spazio, che tutto lo spazio occupa nello spazio. E riuscite a sentire lo spazio che tutto lo spazio occupa. Spazio. Adesso, qual era quell'emozione che volete cancellare dalla memoria, che vi tiene collegati al passato? arrivato il momento to the power within you, di pensare, di rivolgervi al potere che avete dentro and admit to it, e ammettere a questo potere chi siete stati and what you want to change about yourself. E che cosa volete cambiare di voi. This consciousness is real. Questa coscienza è reale. In your mind, I want you to nella vostra mente voglio che le parliate and admit to it, e ammettete davanti a lei chi siete stati. Adesso che avete ammesso dentro di voi, è venuto il momento di dichiararlo anche all'esterno. Voglio che adesso apriate la bocca e che diciate ad alta voce qual è quell'emozione. Ditelo. Liberando il corpo dalla mente. Chiudendo questo divario tra come vi presentavate al mondo e chi invece siete veramente dentro di voi, liberando l'energia. Adesso è venuto il momento di arrendere questa emozione e abbandonarla a una mente superiore. È il momento di lasciare il controllo e abbandonarla a un'autorità superiore. Voglio che abbandoniate questo stato a un'intelligenza superiore e voglio che gli chiediate di risolverlo nel modo che è giusto per voi. Per andare a una coscienza maggiore che già sa che cosa fare. Osservare il vostro vecchio sé l'ultima volta prima di creare un nuovo futuro. E di diventare coscienti dei pensieri inconsci. Come pensavate in passato? Quando vi sentivate in quel modo? Prendete familiarità con tutto questo, con i pensieri che sono collegati al vostro vecchio sé, fate in modo che non sfuggano mai alla vostra coscienza e notateli di nuovo. come agivate in passato, quando vi sentivate in quel modo. Osservate il vostro vecchio sé da un livello maggiore della vostra mente e diventate coscienti delle abitudini inconsce, così che non perderete mai più la coscienza. E quali erano le altre emozioni che derivavano da questa emozione? Ricordate semplicemente a voi stessi se non volete essere più quello che eravate. E prendete familiarità col vostro vecchio sé a tal punto che avrete il dominio su di lui. Adesso prendete la decisione con una intenzione ferma e fate in modo che questa scelta diventi un'esperienza che non dimenticherete mai. Permettete al vostro corpo di rispondere a una nuova mente. È venuto il momento di giocare al gioco del cambiamento. Prima situazione, io dico cambia. Seconda situazione, voi dite insieme a me cambia. E nell'ultima situazione, voi direte da soli cambia. Ora immaginate, è mattina, vi state preparando per andare a lavorare per la giornata che vi aspetta, siete sotto la doccia e improvvisamente quell'emozione tanto familiare inizia a riaffiorare. E nel momento in cui la notate, dite cambia. Esatto. Perché i neuroni che non si attivano più insieme non si connettono più insieme. E non vogliamo mandare lo stesso segnale agli stessi geni nello stesso modo. E a proposito, vivere in base a quell'emozione non è una cosa amorevole nei vostri confronti. Adesso ditelo insieme a me. Siamo a metà giornata. Siete in auto, state guidando, state andando da qualche parte. Mentre guidate, improvvisamente notate quell'emozione così familiare che inizia a riemergere. E nel momento in cui la notate, cosa dite? Cambia. Cambia. Esatto, cambia. Perché il pagamento dell'essere sano e dell'essere pieno è tanto più grande rispetto a vivere in base a quell'emozione. E quell'emozione vi tiene ancorato al vostro passato. Questa cosa non è amorevole nei vostri confronti. L'ultima situazione, e voi direte cambia da soli. È sera. Vi state preparando per andare a dormire. E mentre tirate indietro le coperte del letto, improvvisamente iniziate a percepire quella vecchia emozione che inizia a riemergere. E nel momento in cui la notate, che cosa dite? Esatto, perché i neuroni che non si attivano più insieme non sono più cablati insieme. E non volete mandare gli stessi segnali agli stessi geni nello stesso modo. E a proposito, vivere in base a quell'emozione non è mai stata una cosa amorevole nei vostri confronti. E ora, qual è l'ideale più grande di voi stessi che potete realizzare? Forza! Chi volete essere quando aprirete i vostri occhi? È arrivato il momento di passare in un nuovo stato dell'essere. Cambiare la vostra energia. E come vi sentireste a essere questa persona? Come pensereste? Cosa direste a voi stessi? Riuscite a provare e riprovare mentalmente come agite quando siete questa persona? Riuscite a insegnare al vostro corpo emotivamente come ci si sente? Ora aprite il cuore e trasmettete un segnale, una firma elettromagnetica completamente nuova. Perché quello che trasmettete nel campo è quello che sperimentate nella vostra vita. E fate in modo che il pensiero che avete diventi l'esperienza, e fate in modo che quell'esperienza induca l'emozione. Mandate segnali nuovi ai nuovi geni nel nuovo modo, permettete al corpo di rispondere a una nuova mente. Dai, sentite. Non potete alzarvi da qui, essendo la stessa persona che è arrivata qui all'inizio. Spostatevi verso uno stato elevato dell'essere. Lasciate andare per un momento. Lasciate andare. E fluttuate. E adesso, proprio come quei pianisti, ecco, ripetetevelo, chi volete essere quando aprirete gli occhi? E qual è l'espressione più grande di voi stessi, di quello che potete essere? Come camminate? Come parlereste? Come vi sentireste? Spostatevi in uno stato dell'essere. Quali pensieri volete attivare, cablare nel vostro cervello? E come vi comportereste nella vostra vita? E riuscite a insegnare al vostro corpo emotivamente come si sta a essere grandi, a essere ispirati, a essere illimitati. Come vi sentite nel vostro cuore un'intenzione chiara in uno stato emotivo elevato. Questo cambia la materia. Forza, spostatevi verso un nuovo stato dell'essere. Ora in quel nuovo stato dell'essere c'è una nuova prosperità, una nuova personalità che crea una nuova realtà personale da questo stato dell'essere elevato. È arrivato il momento di comandare la materia, voi come osservatori. Iniziate a vedere il vostro futuro. Permettete alle immagini di arrivare a voi. Perché qualunque cosa osserviate da quello stato dell'essere, collassano queste onde di possibilità in un evento che si chiama esperienza, un'esperienza nella vostra vita. Mantenete lì l'immagine e poi passate all'immagine successiva, senza analizzare, senza giudicare, semplicemente comandando la materia e benedicendo con la vostra energia. Vivete quel futuro adesso. Thank you. Abbandonate la vostra creazione al campo quantico e permettete al campo di organizzare tutto in un modo che sia giusto per voi. E se per caso riuscite a contattarlo, e allora vi farà vedere cose della vostra vita, cose che arriveranno nel modo che meno vi aspettate, modi che vi sorprenderanno e vi lascerà senza alcun dubbio in merito al fatto che è arrivato da questa mente, in modo che vi sentiate ispirati farlo ancora e ancora. And now take your left hand and place it over your heart. Prendete la sinistra e mettetela sul cuore. Voglio che benediciate il vostro corpo, la vostra mente. To bless your life. Benedicete la vostra vita, che è un riflesso delle vostre intenzioni. To bless your challenges. Benedicete le vostre sfide, perché diventano saggezza. Benedicete la vostra anima, che vi risveglia da questo sogno. Benedicete il divino che si è avvicinato a voi e che si è rivelato a voi in modi misteriosi. Ora mandiamo fuori questo segnale in modo tale che il campo vi rimandi gli eventi. Voglio che vi spostiate in uno stato di gratitudine e ringraziate per la vostra nuova vita e nei modi in cui si manifesta. Ancora prima che si manifesti, perché la gratitudine è lo stato più elevato in cui riceviamo, perché la gratitudine significa che l'evento è già successo. E più rimanete in questo stato di gratitudine e più attirate la vostra nuova vita verso di voi. Vi sentite adesso che le vostre esigenze sono state soddisfatte? Riuscite a insegnare al vostro corpo emotivamente come ci si sente? Ora portate la vostra consapevolezza nel nuovo corpo, nel nuovo ambiente, in un tempo completamente nuovo. E quando siete pronti, potete aprire gli occhi. Ora voglio che troviate una persona e che la abbracciate e rivestite questa persona di quella meravigliosa energia. Long.